Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 17ª puntata. Per l'arresto di Mimmo, le ansie, le inquietudini di sempre si coagularono in una paura pervasiva che neanche i microscopi e alambicchi riuscivano più a tenere a bada. Però, malgrado le previsioni, fosche quanto legittime, il passaporto non glielo ritirarono ed Enrico si imbarcò per la Palestina senza intoppi, benché certe facce nel porto e poi durante la traversata gli ricordassero senza requie il rischio che correva. Impeccabile negli abiti all'europea, Enrico in visita ai genitori di Dvora e alle rovine romane per rintracciare in quella terra un legame, per non sentirsi estraneo del tutto. A Givat Brenner, al kibbutz, arrivò con disagio per il caldo e la polvere e le strade maltracciate. Vedere Enzo trasandato con gli abiti comperati dalla collettività uguali per tutti non lo convinse neanche ad allentare la stretta del colletto duro. Rimase se stesso. Pensava di dover dare notizie. Provò a raccontare delle ricerche nuove che aveva avviato, delle modifiche urbanistiche che Roma stava subendo, di Don Benedetto a spasso per Napoli all'ombra delle spie. Enzo chiese di Mimmo e al resto non riusciva a interessarsi. Stava mettendo radici. Parlò della convivenza con gli arabi difficile ma necessaria, dei problemi interni del kibbutz, dei denari necessari a comperare altra terra per l'aranceto. Parlava e parlava, per i terrori che Enrico si portava dentro, e l'arresto non era il più insopportabile, per le sue ansie sbigottite era come un muro, non di sostegno come avrebbe voluto, ma di impossibilità. Scese la notte del deserto, pesante di stelle. Enzo ironizzò sul cattivo cibo ammannito dal kibbutz, le carote cotte e zuccherate che i lituani imponevano ad ogni pasto. Ma a cena, con gli altri, Enrico si fece protagonista. Enzo si tirò indietro e lasciò che il fratello raccontasse l'Italia. Prima di dormire, faccia a faccia di nuovo. Abbrunato dal sole del deserto, con la barba malfatta e gli occhi febbrili per sfinimento e passione, nella luce vaga del petrolio Enzo cercò di convincere il fratello non a fuggire, ma a venir via, a lasciare l'Europa che la marea nera stava invadendo per unirsi a lui, per costruire un mondo nuovo, per salvare se stesso e i suoi. Le mani di Enzo erano callose e sciupate adesso, quelle di Enrico lisce, irrimediabilmente. Papà è molto commosso già prima di entrare. Mamma ha accettato ormai i fatti come sono, ma si vede che le fa molta impressione la prigione con tutto il suo arsenale di chiavi, sbarre e secondini. Io mi sento le gambe molli molli e il viso che mi brucia, perché sono 3 mesi che non vedo Mimmo ed ora lo vedrò. Forse per un riguardo speciale a papà, che è pur sempre medico di Casa Reale, anche se i maligni dicono che dovrà dare le dimissioni, abbiamo avuto il colloquio speciale e non quello alla grata. Entriamo nello stanzino quasi contemporaneamente a Mimmo. La guardia che lo accompagna permette che ci abbracciamo e poi ci fa sedere, lui di qua e noi di là, su 2 panche una in faccia all'altra, a un paio di metri di distanza. Si può stare mezz'ora. Parla lui, racconta del processo, ma il secondino lo interrompe quando gli sente dare certi particolari. Allora parla di me, dell'organizzazione della mia vita, della bimba. Non so cosa diciamo noi, non so cosa dico io. Poco, mi sembra, forse nulla. Vedo lui, che non è cambiato affatto, solo più calmo e più sicuro di sé. Non è un ragazzo di 23 anni, è un uomo cosciente di quel che fa, che conosce la sua strada e non si lascerà deviare da essa. Bussano alla porta. La mezz'ora è finita. Bisogna andarsene. Adesso mi viene in mente tutto quel che avrei voluto dirgli. Un'infinità di cose che avrei voluto domandargli. Ma ormai è troppo tardi. Abbiamo sprecato 30 minuti per delle sciocchezze ed ora, ecco, ce ne andiamo così, senza che l'essenziale sia stato detto. La guardia ci sollecita, non ci lascia prolungare l'abbraccio. Mimmo fa in tempo a mormorarmi all'orecchio: «Su, su, non piangi mica». E lo portano via. Dopo che lui è lontano e scompare dietro ad un'altra porta, ci accompagnano per il bianco corridoio fino al cancello che chiudono alle nostre spalle con un gran fracasso di grosse chiavi. La barba bianca di Lello, la forza che Alfonso esprimeva nella sua figura, lo scaldarono già dalla pensilina del treno e per un momento ancora Enrico fu compiutamente vivo. La sera a cena le notizie anche banali gli chiudevano la gola. I muri dell'appartamento modesto lasciavano passare spifferi dell'aria fredda di marzo, rumori della strada, voci. Dvora insisté perché si coricasse subito. I cerchi attorno agli occhi le sembravano di stanchezza e forse per quella le sue mani tremavano. Enrico la baciò, passò le dita fra i capelli della bimba. «Intanto andate voi», disse. «Verrò anch'io fra poco. Devo fare ordine». Madre e figlia addormentate, la loro aria di straniere così precisa anche nel sonno. Enrico le abbraccia con gli occhi. Chiude piano la porta per non disturbare in alcun modo il loro riposo. Il suo sonno è raro e pieno di incubi. Poi c'è il lavoro all'acquarium, con le incombenze che sembrano distrarlo, i progetti di ricerca, le discussioni. Ma è sempre affaticato Enrico, e con la testa altrove. E dopo l'incontro con un gruppo di scienziati, Dvora si assume per lui il compito di accompagnarli in un giro della città, lasciandogli per amore la libertà di sottrarsi al rumore, ai colori, alle chiacchiere d'uso. Lo scaldabagno a gas era difettoso. L'aria di marzo troppo fredda per aprire come sicurezza la finestra. Il vapore dell'acqua invase lo stanzino da bagno piccolissimo. Enrico si regalò il piacere di un sapone inglese. Il profumo si diffuse nell'aria, forte, coprendo ogni altro odore. Enrico nell'acqua calda che scorre e scorre, sempre più bollente. Sono lontane le norme igieniche di suo padre. L'acqua fredda tonifica e rinvigorisce, quella calda affatica il cuore ed infrullisce. Non contano più. Né vale la severità un tempo rassicurante di Alfonso, i suoi consigli e le sue prescrizioni e le sue esigenze e il suo affetto. Quando il buio arrivò, ogni cosa era così lontana e persa che nulla più poteva fargli paura. «Alla morgue», disse Lello all'autista, che chiuse lo sportello piano piano, sorridendo di disagio come se la colpa fosse sua. Un gran sole d'inverno metteva a nudo Napoli, il cielo azzurrissimo, la miseria rigogliosa, il mare calmo come d'estate, troppo colmo di riverberi. Nell'angolo della vettura Alfonso si copriva gli occhi, rossi delle lacrime che non aveva pianto. Il riconoscimento lo fece Lello in fretta. E gli bastò uno sguardo per bloccare ogni idea di autopsia. Da Roma, del resto, aveva già fatto i passi necessari. Lo portarono a casa per la veglia e Alfonso ad un tratto si trovò sola con quel figlio morto, così freddo da essere del tutto irriconoscibile per le sue mani. Lo toccò una volta sola, sulla selletta dei baci fra il naso e la fronte, e il gelo le si trasmise ai muscoli e alle ossa. Una morte non naturale né eroica. Una morte senza aggettivi, così assoluta da cancellare ogni fiducia e fede. E insieme così certa, nel suo essere definitiva e senza possibilità di modificazioni ulteriori. Enrico ora incrollabilmente fissato nel suo destino di scienziato, di marito e padre affettuoso. Per gli altri figli, i vivi, I timori, le preoccupazioni non potevano che aumentare. Di fronte alla morte ancora Alfonsa muta e inabile, priva di risorse e strategie. Ermelinda dispone fiori e accende sottoscrizioni. Le assenze la rendono fervida di azioni. Solo per la bimba Adale, per i suoi vezzi paffuti e i riccioli ribelli ad ogni ravviatura, Alfonsa tornò a parlare. Riprese i gesti della vita consueta. La sera le cantò una nenia ebraica e la sua voce riuscì a farsi dolce. Poi Lello la convinse a coricarsi e a vegliare Enrico rimasero i giovani, Giorgio Amendola ed Eugenio Colorni, il cugino che di sé diceva Pierino ed ora si era fatto a sua volta dirigente politico. Lo avevano amato molto Enrico, anche per le sue fragilità. Adesso era lì, immobile, finito. Forse lo immaginarono che era soltanto il primo e che altri morti giovani, magari loro stessi, sarebbero venuti presto. Per questo, nella lunga notte fredda, Giorgio ed Eugenio coprirono il silenzio con la passione di una discussione politica affettuosamente accanita. Per il funerale, Dvora e Alfonsa rimasero in casa, delegando agli uomini la sofferenza degli occhi estranei, curiosi ed interrogativi, o semplicemente addolorati. Il riannodarsi della tradizione, senza uscire per una settimana, sembrò una risorsa forte contro la confusione, contro l'incertezza di un mondo le cui coordinate andavano facendosi incomprensibili. Sul feretro che usciva dalla casa, Alfonsa lasciò che Dvora piangesse, perché la bimba era al riparo, in terrazza con Ermelinda ad annaffiare le piante. Dvora singhiozzava, forte. Con gli occhi secchi Alfonsa le porse un fazzoletto, di quelli grandi di Lello, con il monogramma ricamato. È naturale per tutti che Alfonsa accolga in casa Xenia e Dvora e le loro bambine, vedova l'una, vedova bianca l'altra, straniere ambedue per radici, hanno mezzi di sostentamento precari. Non è naturale per lei, che si era organizzata una solitudine, ma della sua fatica si accorge solo Lello, a tratti, perché Alfonsa riesce nel miracolo di esserci sempre quando serve e scomparire anche in casa propria quando la sua presenza può non essere opportuna. Così, quando le due nuore occupano per una serata intera il soggiorno con la compagnia di una bottiglia di liquore, ricordano e bevono, ridono e bevono, bevendo riescono anche a piangere. Il liquore è denso e appiccicoso, sono sempre state astemie e gli esiti di mal di testa saranno tremendi. Domani, con le tempie in fiamme, si giureranno di non bere mai più e manterranno la promessa. Ma intanto l'alcol brucia in gola e scioglie il gruppo duro del dolore, consentendo debolezze e abbandoni. Attraverso i muri Alfonsa si intenerisce della loro giovinezza, della loro vulnerabilità e della sofferenza. La voglia di condividere la confusione la sente anche lei così forte, ma pensa che il suo dovere sia un altro: essere forte e costante e uguale d'umore con tutti, qualunque cosa accada. A questo li ha abituati, questo si aspettano da lei, che il suo latte, come quello della centenaria Sara, moglie di Abramo, per miracolo scorra a fiumi finché ne avranno bisogno, finché il suo nutrimento non li sazierà e farà grandi, ancora più grandi. Alfonsa nel suo letto respira a fondo. La memoria della loro fame è così dolce, come quando li ha partoriti si sente viva e necessaria e forte, ma il sonno tarda a venire. Alfonsa si preoccupa di non avere abbastanza forze per la giornata che verrà. Dal comodino trae una bottiglia piatta di liquore, secco e forte. Ne prende un lungo sorso senza piacere, come una medicina. Chiude il tappo con cura, ripone il suo piccolo segreto. Ora forse riuscirà ad addormentarsi. Arrivo all'alba alla stazione di Trastevere, dove si imbarcano i detenuti, e mi apposto fuori per vederli arrivare con il furgone carcerario. Sono sola. Nessun altro sa di questa partenza. L'aria è umida e fredda. I lampioni sono ancora accesi nella notte che finisce, ma la loro luce è già sbiadita e inutile. Il carrozzone non arriva mai. Forse hanno fatto apposta a dire che la partenza è fissata per quel dato giorno. La si effettua invece di sorpresa. Si evita il pericolo che qualcuno venga a saperlo prima e che ci siano poi le famiglie e le mogli che piangono e non si vogliono staccare dal collo del marito. Invece all'improvviso il carrozzone sbuca dalla penombra e i detenuti cominciano a scendere. Sono incatenati l'uno all'altro, i polsi serrati insieme nelle manette e con le mani così impedite debbono trascinarsi dietro il sacco della roba. Mimmo è in mezzo, fa molta fatica a portare il suo sacco che è pieno di libri. Non mi ha ancora visto, ma poi mi faccio avanti e mentre passano tutti in catena per un cancelletto al lato della stazione, mi confondo in mezzo a loro e passo anch'io. I suoi occhi mi hanno visto, mi sorridono pieni di gioia. I carabinieri di scorta cercano di scansarmi, ma oramai siamo sulla banchina della stazione e i carcerati, che non sanno chi sono, mi hanno circondato. Vola già qualche frizzo galante. «Compagni, vi presento mia moglie», dice Mimmo. «E facciamo in tempo ad abbracciarci prima che i carabinieri si decidano ad allontanarmi con maggiore energia. Del resto, ecco il vagone cellulare nel quale i detenuti debbono salire, e presto, perché il treno ferma pochi minuti. Lo scalino è altissimo e quando uno sale, tira la catena e le manette tagliano i polsi a lui e al compagno che segue». Che pena vederli alzare quel sacco. Ogni movimento deve farlo spasimare. Non riesce proprio a caricare quel peso sul vagone. Anche ai carabinieri fa pena e lo aiutano. Ora sono saliti tutti. Chiudono e sbarrano le porte. Erano ancora vestiti tutti in borghese, ma è forse l'ultima volta che lo vedo così. Il sacco troppo pesante, le manette che tagliano i polsi, l'aria fumosa della stazione e il vagone chiuso che se ne va. Mi danno una stretta al cuore, un senso di desolazione, di solitudine, di freddo come non ne avevo conosciuti mai. Ma ad un tratto, sopra il fragore del treno che incomincia a muoversi, mi giunge un canto. È soffocato dalle porte sprangate, ma lo riconosco lo stesso. Avanti, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. È come uno schiaffo. Io qui a fare la sentimentale e loro tutti incatenati, infreddoliti, con le mani gonfie e paonazze, buttati come bestie in quel cellulare, cantano la loro fede. Ora il treno è lontano, non li sento più, ma l'inno canta dentro di me. Con le sue parole semplici e appassionate. Prenderà altri schiaffi, Xenia, ma pochi. La disciplina rivoluzionaria, che forse è per lei addirittura un'eredità genetica, le detterà le maniere in cui comportarsi in ogni istante della vita, anche quando nessuno può vederla. Una disciplina rivoluzionaria che è anche, però, una canzone. Nella casa penale di Viterbo, Mimmo si è già abituato al numero d'appello. Per il resto, niente è diverso dai giorni già scontati, né da ciò che può aspettarsi per gli anni a venire. Nelle abitudini del carcere si è scavato come una nicchia. Si fa assorbire dallo studio fino a perdere cognizione di ogni tempo. Non si annoia mai. E le lettere di Xenia, il loro cifrario segreto che sfugge alla censura, sono ogni volta un'avventura che lui riesce a farsi bastare per i lunghi intervalli fra l'una e l'altra imposti dal regolamento. La giornata è scandita da orari e abitudini, suoi o del carcere, e modificarli gli crea soprassalti che è meglio, se è possibile, evitare. Per non perdere tempo e per impedirsi di pensare ad un'altra vita, dai tempi liberi e scelti. Ma di notte i sogni tradiscono il suo autocontrollo. Vede se stesso capace di salti lunghissimi che senza sforzo scavalcano mura e cancelli. I risvegli sono dolorosi. Quando il secondino viene a chiamarlo, interrompendo una lettura di fisica, Mimmo si stacca dal libro con pena. La convocazione dal direttore può significare un nuovo trasferimento, altre abitudini da conquistare, un'altra nicchia da costruire. Mimmo è il secondino lungo i corridoi. Cancelli si aprono e si chiudono con quel clangore che a Mimmo è già entrato nelle ossa. Per resistere pensa che forse è solo a causa di quei libri che ha chiesto, magari è soltanto per questo che lo hanno convocato. E infatti il direttore ha sulla scrivania, quando entrano, il manuale americano di agronomia che da mesi aveva richiesto. Lo porge a Mimmo senza esortazioni o commenti, e questo è in contrasto con le consuetudini. Mimmo in piedi, con il libro in mano, in attesa di venir congedato. Il direttore si tocca i baffi e il mento, poi si volta verso la finestra per nascondere l'imbarazzo. «Sono in carico del Ministero dell'Interno, devo comunicarvi», dice e fatica a proseguire, «che vostro fratello è deceduto improvvisamente». Mimmo sposta da una gamba all'altra il peso del corpo, inghiotte un'inesistente saliva, poi chiede: «In Palestina?». Il direttore consulta un foglio dattiloscritto, dice: «A Napoli». E Mimmo capisce che non di Enzo si tratta, per malattia o pallottola araba come ci si poteva aspettare, ma di Enrico. Non chiede altro. Il direttore lo congeda. In cella si siede e fa ginnastica. Si concentra nei movimenti per non prendere a pugni le pareti. Xenia nella lettera gli dirà com'è successo, ma ora non sa niente, non può che immaginare. E l'idea che Enrico possa essere morto per volontà gli punge il cuore con una violenza insostenibile. Con il capo coperto da una qualsiasi pezzuola, Mimmo raggomitolato in un angolo della cella e senza accorgersene si trova a recitare il Kaddish, la preghiera dei morti. Dallo spioncino il secondino che gli vuol bene ascolta quelle parole strane e teme che sia impazzito. Ma poi si accorge e l'ebraico diventa greco. A voce alta recita Senofonte e poi Eschilo, attento alla metrica, alla pronuncia, alla musicalità. Avanti e indietro nella cella declamando, e le lacrime che gli premono dietro gli occhi finalmente tornano indietro. La ginnastica, le letture, declamare ad alta voce per non perdere l'abitudine ad usarla. Ma ci sono dei momenti, improvvisi, in cui la solitudine della segregazione cellulare si fa d'un tratto intollerabile. E allora Mimmo incolla l'occhio ad una fessura della porta, piccolissima, da cui riesce a vedere qualcosa del corridoio, il passaggio di un detenuto o di un secondino, del prete che ha rifiutato di incontrare. Più spesso in quei momenti l'unica cosa che gli si offre alla vista è la porta della cella di fronte alla sua, con su quella scritta «Grande vigilanza», che sembra fatta apposta per eccitargli curiosità e aspettative. Mimmo conosce il linguaggio di Radio Carcere, l'ha imparato nei giorni trascorsi al sesto braccio del Tribunale Speciale, ma Lucca può utilizzarlo ben poco. La cella accanto alla sua custodisce due pastori, un sardo e un siciliano, analfabeti. Però lui di tanto in tanto prova, trasmette messaggi e si sforza di interpretare i balbettii picchiati disordinatamente dall'altro lato del muro. È il siciliano a fargli capire finalmente chi c'è nella cella di fronte, chi è il detenuto così pericoloso da vessarlo nell'isolamento, con perquisizioni quotidiane reiterate e ogni altro possibile fastidio. Un dirigente contadino che per Mimmo è quasi una leggenda. C'è un secondino più disponibile degli altri. Mimmo riesce a convincerlo a ritardargli opportunamente il turno in sala di scrittura. Una volta al mese, un quarto d'ora, per vergare quattro paginette da mandare ai familiari. Dopo tanto silenzio, i due detenuti soli in sala scrittura. Quello che sanno l'uno dell'altro è che sono comunisti. Non si sono mai visti prima. Si abbracciano forte. C'è un calore da compagni nel modo che hanno di stringersi le mani, di baciarsi sulle guance. Il secondino li controlla con stupore irridente, lascia fare. Le barbe lunghe, la divisa da galeotti. e il tempo è così poco e il secondino fa segno di sbrigarsi, più di tanto non è disposto a rischiare. Chi sei? Come hai fatto a beccarti 15 anni? Mimmo spiega concisamente, dice anche dei contatti che ha avuto con il centro estero del partito. L'altro è in galera da più tempo, ha perso i collegamenti, non sa. Dice: abbiamo ancora 10 minuti. In 10 minuti devi riuscire a dirmi l'essenziale sull'espulsione dei 3 opportunisti e sulla svolta del partito. Ma devi trovare anche il modo di spiegarmi come si inquadra la svolta nella politica dell'Internazionale comunista. 10 minuti per dare forma logica a quanto logico non è, alle contraddizioni, ai silenzi e alle calunnie. Ma Mimmo ha imparato l'ortodossia e la ginnastica mentale delle disquisizioni talmudiche gli viene utile ora per farsi tornare ogni conto, per continuare a tessere dentro di sé quella rete indistruttibile. Ogni maglia, per il fatto stesso di esistere, va a congiungersi con le precedenti, quasi automaticamente. Il secondino interrompe l'esposizione di Mimmo, per i commenti non c'è tempo e ci sarebbe ancora tanto da dire, da discutere, da convincere. Mimmo torna in cella e la lettera a casa per questo mese non l'ha scritta, ma da oggi in poi, guardando dalla fessura la porta di fronte, si sentirà meno solo. Is there anybody out there?